got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 che attraverso la cucina ci parla dell'identità e molto spesso di migrazione. Questa sera siamo con una gradita ospite, Gabriella Curuvilla, buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi, padre indiano, madre italiana. Gabriella è laureata in architettura, è una giornalista e è una scrittrice e una pittrice. È un'attività frenetica di cui poi parleremo, ma con lei volevamo iniziare a parlare innanzitutto di cibo. Gabriella, so che ci hai portato un piatto. Sì, io porti del cibo è quantomeno bizzarro. E il piatto è pasta al tonno. Perché in realtà la prima volta che io mi sono messa a cucinare, questo non è successo moltissimo tempo fa, è stato quando la pediatra mi ha detto che non potevo continuare a nutrire con pappette mio figlio e che quindi dovevo cucinare qualcosa e io lì di fronte al mio totale panico, che lei ha nelle mie espressioni, ho detto beh, puoi iniziare con una pasta e poi mi ha anche detto però dovrebbe condirla e quindi appunto il mio primo piatto è stata la pasta al tonno che è cucinata. Quanto aveva tuo figlio quando ha assaggiato la pasta al tonno? Beh, mio figlio aveva un anno ma continua ad assaggiare la pasta al tonno, adesso ne ha 12. Mi pare di capire che il tuo rapporto con i fornelli sia un pochino timido. Sì, è timido, è un eufemismo, ma sono loro che non vanno d'accordo con me, cioè non... Però insomma sarai anche tu legata magari a dei gusti e dei sapori della tua infanzia che ci possono raccontare qualcosa di te e delle tue radici doppie, no? Perché tu, lo dicevamo all'inizio, è la mamma italiana e il papà indiano. Invece di queste radici multiculturali, che cosa ti rimane? È un percorso che tra l'altro io ho un incontro tra mondi diversi che ho vissuto sulla mia pelle, nella mia vita, attraverso la mia vita sono anche il risultato in qualche modo fisico di questo incrocio e per me è sempre stato un, non so, come un lungo viaggio in cui poi attraverso la scrittura e la pittura ho cercato di creare un ponte tra, appunto, tra l'Italia, che è il paese dove sono nata e cresciuta, e l'India, che è più che altro il paese del sogno, del desiderio, perché non è quello di cui io ho fatto realmente esperienza. Certo, sono andata moltissime volte in India, non ci sono andata come turista, ma ci sono andata anche come turista, ma sono andata soprattutto per trovare i parenti, eppure comunque non si può dire che io non so come dire, non sono cresciuta lì, non ho le mie radici lì, ho più l'idea, una proiezione, anche una nostalgia di qualcosa che potrebbe essere, che non è mai stato. Il tuo rapporto con l'India quindi è un rapporto più di curiosità che di radici? È un rapporto, dunque, è stato un rapporto molto difficile da piccola, nel senso che più che un incontro con l'altra parte di me è stato uno scontro con qualcosa che per me era molto lontano, in cui non mi riconoscevo e soprattutto dove non venivo riconosciuta in qualche modo, e molto forte, e quindi che mi ha respinto. Poi da questa, il passaggio invece all'attrazione è avvenuto negli anni e c'è stato un riannodare un legame, però riannodarlo attraverso appunto gli strumenti che io avevo e che mi sono a poco costruita, e appunto prima dicevo in qualche modo anche la parola e il disegno. La parola e il disegno che sono gli strumenti del tuo lavoro. Tu dipingi, sei architetto, sei anche una giornalista e una scrittrice. Quale di queste attività ti rappresenta di più? Come riesci a conciliare anche tutte queste attività? Ma allora io ho fatto, mi sono laureata in architettura in realtà perché mi hanno impedito di fare le belle arti, cioè di fare un percorso artistico. E quindi quello una che cosa più folle, insomma. Esatto, quello che più si avvicinava all'arte era l'architettura, evidentemente. E, però poi i sogni sono appunto sempre stati quello di scrivere, ma non di scrivere racconti, di scrivere romanzi e di dipingere. E in qualche modo anche la pittura per me viene usata come una forma di scrittura, cioè usare il disegno, il colore al posto delle parole. Diciamo intanto per gli ascoltatori che non ti conoscessero, che tu pubblichi ormai credo da 15 anni, no? Il primo libro è del 2001, il romanzo Media Chiara e Noccioline, e poi sono arrivate dei racconti nelle antologie Pecore Nere. L'ultimo credo sia del 2012 per La Terza, Milano Fin qui tutto bene. Sì. C'è sempre il racconto della... Il tema della migrazione nei tuoi racconti, questa della migrazione, del meticciato, rischia un pochino di diventare anche un recinto. Allora, il tema della migrazione nel primo romanzo Media Chiara Noccioline c'è, ma è lì quasi a mia insaputa, nel senso che non ero consapevole, e poi mi hanno chiamata per parlare appunto di migrazione partendo da quel romanzo. Non potevo far altro che parlare anche di migrazione, essendo appunto figlia di una, essendo che mio padre è indiano. E poi invece negli altri racconti è stata una scelta quella di parlare di migrazioni, soprattutto in È la vita dolcezza, che è nato nel, che è stato pubblicato nel 2008, ma che in realtà è nato nel 2005 durante gli scontri nelle baglie parigine. Cioè, ha preso spunto da quel fatto di cronaca, perché avevo voglia di raccontare la situazione dei migranti, dei figli dei migranti in Italia, proprio in un momento in cui i media e i politici ce ne parlavano in altri termini, in altri modi. E quindi di dare la mia visione su quello che era che era la volontà di ritornare all'individuo, alla storia dell'individuo, perché i migranti venivano raccontati secondo me in maniera uniforme, come un blocco unico, come in qualche modo scordandosi l'umanità, e invece ero lì da lì che volevo ripartire. E poi Milano Fin qui tutto bene, che è uscito nel 2012 per La Terza, in realtà anche lì lo spunto è stato uno spunto di cronaca, ma era una voglia di raccontare la Milano di oggi, la Milano del 2000, mischiando vari personaggi in varie zone. E in realtà c'è una ragazza che è milanesissima, parla addirittura in milanese, un ragazzo che è napoletano e che mischia appunto il napoletano al patois, che è lo slang americano. C'è una ragazza indiana che però non, figlia di una mamma indiana, che però in realtà dell'India non sa quasi nulla, e poi c'è un ragazzo tunisino. Ma è quella che è la Milano di oggi, dove è veramente un incrocio di mondi e quindi anche di linguaggi e di prospettive molto diverse, ed era quello che volevo riportare era il contemporaneo che mi interessava ritrascrivere in qualche modo in forma di romanzo. Nell'ultimo libro invece, che è però in sospeso, che è in cerca di un editore, quindi non è ancora pubblicato? No, non è ancora pubblicato. Il tema è quello più che altro del precariato, cioè un mondo di trentenni, quarantenni che vivono in una sorta di precariato che è lavorativo e che diventa anche sentimentale, e è sempre una fotografia sul mondo contemporaneo. In cerca di editore, stai facendo fatica quindi a trovare un editore, perché il tema mi sembra molto attuale. Sto facendo molta fatica a trovare un editore, non poco. Infatti questo romanzo, che tra l'altro io ho iniziato subito dopo il mio primo nel 2001, e che ho avuto poi appunto, che ho abbandonato negli anni, che poi ho ripreso e su cui ho lavorato negli ultimi quattro anni in maniera molto attiva, facendo ancora gran fatica, la stessa fatica non è soltanto stata quella di appunto produrla all'interno di casa mia, ma anche di farlo uscire magari dalle mura di casa. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24. La passione si sente. Anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. Parliamo di questo bel film, no? Vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Parliamo di Dipan, un film francese dove i protagonisti sono dei migranti dello Sri Lanka. Un gruppo di migranti che sono indipendenti uno dall'altro come storie, ma decidono di far finta di essere una famiglia, no? Cosa ti ha incuriosito di questo film che trovo estremamente contemporaneo? Chissà quanti migranti hanno finto di essere delle famiglie per arrivare in Europa. Il tema di questo film, cioè la caratteristica che mi ha colpito di più è che raccontava la vita di questi migranti che scappavano da una situazione di guerra reale, cioè il protagonista, quello che finge di essere il padre di questa famiglia è un combattente tamil e scappa appunto con una donna che è una civile e con una bambina che in realtà viene strappata la madre, ma perché la madre è anche quasi in qualche modo la cede perché non riesce a prendersi cura di lei, a mantenerla tra virgolette, ma la situazione appunto da cui scappano è quella di una guerra civile, ma quella in cui si ritrovano, che è una banlieue parigina dove vanno a vivere, cioè una periferia, una zona di periferia, è una guerra tanto quanto, è una guerra tra individui, è una guerra tra poveri, ma appunto scappano da una situazione per ritrovarsi in un'altra, in cui poi dopo lui, che era appunto un combattente, utilizza le stesse armi che usava sul campo, sul reale campo di guerra, in un altro campo che non viene dichiarato di guerra, ma che di guerra è tale. E quindi che appunto queste situazioni si hanno sia nei paesi dove lo Stato di allerta è dichiarato, ma anche in determinati quartieri dove i conflitti, dove la povertà, dove le differenze tra le persone creano una situazione che non è, dove l'incontro non è quasi più possibile ed è soltanto uno scontro e anche una lotta in cui a vincere sempre più forte. Sentiamo allora proprio il trailer di questo film. State bene qui, tu e tuo marito? Tu sei felice? Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Chi sono quelli? Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere. Oddio, Ganesh. Ti supplico di vegliare su di noi. E fa che tutto alla fine vada bene. Voglio restare con voi! Non mi lasciate! Mm-hmm. E insomma, avete capito, si tratta di questa storia in Dipan di un ex combattente del gruppo militante nazionalista Tigri Tamil in Sri Lanka che tenta di sopravvivere e scappa con queste due persone, una trentenne che vive in un campo profughi e che vuole raggiungere una sua cugina in Gran Bretagna e una ragazzina ceduta dai genitori perché la madre non riesce a prendersene cura. Tre persone che non hanno legami familiari fra di loro, ma che li costituiscono a un certo punto, no Gabriella? Sì, creano una famiglia in qualche modo attraverso il tramite che è la finta figlia. Fanno finta di essere una famiglia, ma poi lo diventano. Ma poi lo diventano. Forse questo finale, questo lieto fine è la parte che mi è piaciuta a me, il film, nel senso che mi sembrava appunto molto interessante dimostrare come in qualche modo la guerra non è, come dicevo, soltanto lì dove viene dichiarata, dove tutti sanno che esiste, ma si nasconde anche altrove. E poi e vissero tutti felici e contenti, mi sembrava un po' forzato, ma forse ci stava. Sì, in effetti è interessante della pellicola. Che il mondo insomma sia ovunque dominato da violenza e soprusi, sia che si combatta fra le tigri tamil in Sri Lanka che nelle banlieue quando si è degli emarginati. Esatto, il tema è fondamentale. È un tema purtroppo molto attuale, perché pensavo ai profughi siriani quando si mettono in cammino partendo dalla Siria bombardata da Assad, stretta dallo Stato Islamico, e poi si ritrovano magari picchiati in Montenegro oppure a camminare nella neve in Croazia o ancora magari emarginati nelle nostre periferie. Esattamente. Questo è appunto che scappi da qualcosa che è evidente, che conosci, che è anche insopportabile, e poi ti ritrovi in una situazione che doveva essere appunto la tua via di fuga, anche il luogo della speranza, e che invece ha è come se fosse uno specchio deformato del luogo da cui tu te ne sei andato. Tu scrivi spesso per La Città Nuova, ho visto recensioni o comunque pezzi di cinema, è una tua passione? È una mia passione assolutamente, tra l'altro quando mi chiedono per quanto riguarda la scrittura ma anche oltre la pittura, da cosa traggo ispirazione, cioè quali sono i miei libri o scrittori di riferimento, in realtà ho più film e registi, scusa, nel senso che è lì che in qualche modo mi vengono le suggestioni e le idee, a parte appunto al di là della cronaca, o degli spunti a cui poi mi rendo conto che consapevolmente faccio riferimento quando scrivo. Allora, parliamo di un altro film di cui tu hai scritto, Mustang, un film ambientato in Turchia, in un villaggio, no, reazionario, tradizionalista, dove queste ragazze sono costrette a una vita non libera. Che è la situazione della Turchia contemporanea, nel senso che la condizione femminile, la condizione delle donne è comunque molto difficile, e che ci sono queste sorelle che vengono semplicemente perché hanno corso a cavalcioni, hanno giocato insomma con dei ragazzi nella spiaggia e dentro il mare, vengono accusate dallo zio e dalla nonna, essendo loro orfane, di un comportamento scorretto che però diventa una vergogna più che per loro anche per tutti i familiari, e quindi vengono recluse all'interno di una casa che si trasforma a tutti gli effetti in un carcere con tanto di sbarre alle finestre da cui loro non possono uscire, e vengono costrette ai lavori domestici finisci per essere poi mandati in sposa, siccome che il matrimonio combinato potesse risolvere questa situazione, in qualche modo pulirle e riportare dalla vergogna e restituirle l'onore perso. E le forme di ribellione di queste ragazze all'interno del nuovo carcere domestico sono di vario tipo, tra cui una che è la più disperata, cioè quella del suicidio. Ma appunto quello che colpisce è questa fotografia non di una Turchia arcaica, ma di una Turchia presente. Tutto mutò in un battito di ciglia. Ecco, parlando appunto di questa immagine della donna e segregazione della donna in paesi che lambiscono i paesi islamici, perché la Turchia non è un paese islamico, però è una cerniera fra l'Europa e il Medio Oriente, no? Non possiamo non pensare ai fatti più recenti, Gabriella, di Colonia, in cui si sono viste tante donne molestate, derubate, aggredite da persone che arrivano dai paesi islamici. Non si capisce bene se siano appunto persone nate magari in Germania o profughi o rifugiati o migranti economici, insomma sicuramente si pone il tema però di una visione diversa della donna. Io ho pensato che fondamentalmente la violenza sul corpo sulla donna in quanto soggetto tra virgolette fisicamente debole avviene in continuazione. Un anno fa, ma neanche, fino a pochissimo tempo fa, si continuava a parlare della violenza sulle donne, ma si parlava in Occidente della violenza sulle donne, che vengano violentate o uccise soprattutto in famiglia, soprattutto dai loro compagni, dai loro amici. Cioè, il problema è il rapporto con la donna in sé, e che in Occidente come in Oriente, qui come altrove, è qualcosa su cui bisognerebbe lavorare molto, e soprattutto come madre di un figlio maschio penso anche che bisogna lavorare a partire dal privato. Rimanendo in temi invece cinematografici, ho letto che Taxi Teheran ti ha annoiata. Taxi Teheran, questo no, è interessante perché è politicamente scorrettissimo, perché è il film, l'ultimo film di questo regista iraniano Panahi, girato dal 2010 faticosamente, perché quest'uomo, questo regista, è stato condannato a non poter più realizzare film o a scrivere sceneggiature e neanche a uscire dal suo paese. Quindi lui faticosamente a Teheran si è messo questa telecamera all'interno di un finto taxi, no? E ha girato questo film in queste condizioni. Quindi dire che ti ha annoiata, insomma, ti pone ai margini del radical chic. No, allora, dunque, mi ha annoiata profondamente. Quando sono uscita di lì ho pensato, ma non si può dire. E poi mi sono anche detto, quando sono uscita di lì dal cinema, e poi mi sono anche detta, no, si può dire benissimo. Tra l'altro, appunto, mi è venuta in mente una scena del film di Nanni Moretti, quando lui va a vedere un film che proprio non mi ricordo che film era, che proprio non regge, e poi esce, cerca la recensione in cui ne parlavano benissimo, e va a caccia del critico, e quando lo trova pensa anche, gli chiede, ma tu non provi dei rimorsi dopo aver scritto che questo film, che era uno dei peggiori film che abbia mai visto, era invece un capolavoro? Quindi non potevo scrivere che era un capolavoro, perché non l'avevo assolutamente pensato, e ho scritto quello che ho vissuto, e che tra l'altro di fianco a me c'erano altri critici, alcuni si sono addormentati, e poi ho letto le loro recensioni, invece dichiaravano che era un film stupendo, perché di Panahi ovviamente non si può parlare male, ma non c'era nulla capisco, era interessantissimo come manifesto contro la censura, come sua forma personale di ribellione, ma che da qui uno spettatore possa apprezzare un film in cui le storie mi sembravano assolutamente deboli, e che raccontavano nulla che già non non si sapesse o non sapessimo, non c'era veramente neanche un dettaglio a cui mi potessi appoggiare per dire mi sta colpendo, mi sta emozionando, mi sta raccontando delle cose, perché sono piccole storie quotidiane che potrebbero svolgersi davvero quasi ovunque. È un antifurto? Sì, in un certo senso sì. L'unica cosa sicura è che ha l'aria di essere un'ottima telecamera. Sta girando un film, non è vero? Per forza. Lei che fa l'autista di un taxi, signor Panahi? E hai il coraggio di venirmi a prendere con questa vecchia carcassa? Alle mie amiche ho detto che arrivava mio zio, che è un regista molto importante. Non ti preoccupi per niente della mia reputazione. Lei acceleri e ce la faremo. Se Dio vuole, ce la faremo. Presto! Hanno bisogno di acqua, serve acqua! Respiro. Serve acqua! Faccia presto, stanno morendo! Lui va più veloce, conosce molto meglio le strade. Imbecille, incapace! Grazie, grazie a Gabriella Curuvilla per essere stata con noi stasera. Buona serata! Grazie a voi, buona serata. Grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory.